Sono le 9:29 di sabato 24 febbraio 2024. E con Marco Giovenale si parlava della necessità di sfuggire alle ricorrenze, alle giornate mondiali, per essere liberi di parlare delle cose in qualsiasi momento in cui ci sembrino rilevanti o anche banalmente quando ci colpiscono. Ecco, io sono stato colpito oggi da un ricordo che però mi sono andato a cercare, ecco, questo è fondamentale dirlo, anche per sfuggire a quelle terribili funzionalità di Facebook, no? Che ti dicono: guarda, c'è questo tuo ricordo che oggi potresti commentare, cioè, perché dobbiamo farcelo dire da qualcun altro cosa e quando? E io sto sicuramente in questi giorni leggendo molto sugli anni 70-80, sulla strategia della tensione, su quel periodo un po' particolare, e lo sto facendo in modo disordinato, non lo sto facendo con chissà quali velleità di ricerca. Però sento di doverlo fare adesso, perché mai come in questi giorni quegli anni ci aiutano a interpretare il presente. E così, cercando su RaiPlay qualcosa sulla strage di Bologna, che di tutte le stragi è stata in realtà la più sanguinosa, mi sono imbattuto in un documentario che si intitola Vittime, scritto da Vanessa Roghi, che insomma ringrazio e saluto per il grandissimo lavoro che sta facendo, e devo dire che è un documentario magari che per un attimo spezza questa specie di feticismo della ricerca di personaggi, di misteri, di segreti di Stato, che è invece tipicamente il mio approccio, anche un po' morboso rispetto a tutte queste vicende, e gioca proprio tutto sulle emozioni delle vittime, che ti danno davvero la sensazione di quello che è accaduto e di che impatto ha avuto sulla vita di tantissime persone. E la strage di Bologna effettivamente è una delle più inspiegabili, perché, come dire, già sembra abbastanza chiaro che l'idea di andare verso una svolta conservatrice, forzata o meno forzata, golpista o meno golpista, insomma, nell'80 sembra già un po' cadere questa ipotesi, dopo i vari tentativi più o meno velleitari che precedettero quell'ultimo episodio. E sappiamo che ci sono due persone incriminate, condannate in via definitiva per essere stati gli esecutori materiali, anche se loro negano, e non si sanno i mandanti. Però ecco, quello che rimane di quel documentario è appunto la reale dimensione del male prodotto, ecco, mettiamola così, e quello che ti colpisce emotivamente nel racconto, ovviamente, di tutte le famiglie coinvolte, e che mi spinge a una riflessione: ma siamo sicuri che tutto questo odio, questo livore, questo rancore che sembra emergere oggi dai social media rifletta un odio nella società italiana maggiore di quello di quegli anni, no? Quegli anni che invece raccontiamo come degli anni, sì, di violenza politica, ma di persone candide, di persone che non si scannerebbero sui social media come oggi, no? È che io penso che in realtà, ristudiando gli anni 70 e 80, scopriamo che forse tutto quell'odio era semplicemente reso molto meno visibile, come direbbe Mafe De Baggis, e che per vederlo bisognava addirittura che uccidesse le persone nelle strade, nelle piazze, con giustificazioni ideologiche, politiche. Oggi la violenza che vediamo è una violenza in realtà più subita dai giovani, no? Vediamo le manifestazioni sulla Palestina e la polizia che interviene, li manganella e li manda all'ospedale. Non c'è quel livello, diciamo così, di assoluta indifferenza verso la vita umana che poteva esserci in quegli anni, magari giustificata dalla militanza, dall'ideologia, da quello che vogliamo. Forse siamo su due scale diverse, però almeno smettiamola di parlare degli anni 70 e 80 come degli anni di persone che girano in jeans, maglietta e col cornetto Algida, perché non era esattamente così.